Prima di cominciare la lettura quotidiana della vita di Charlotte Bronte, vorremmo fare un piccolo approfondimento. Siamo ormai quasi in conclusione del racconto della vita di Charlotte Bronte, dalle sue lettere è chiaro che mai per un attimo Charlotte smise di essere un'intellettuale, di leggere, studiare, informarsi, nonostante l'isolamento, la durezza della sua solitudine e il suo stato di salute precario. Una donna di tale carattere e intelligenza non poteva che avere corrispondenze con donne altrettanto eccezionali che l'aiutavano a lenire in parte la dolorosa mancanza delle sorelle. Tra queste abbiamo spesso sentito nominare Miss Martineau, alla quale Charlotte scriveva e a cui si rivolgeva con toni di amicizia e stima e a cui fece anche visita. Scopriamo insieme chi era Miss Martineau. Harriet Martineau nacque nel 1802, dunque 14 anni prima di Charlotte, nel Norfolk, in Inghilterra orientale, da una famiglia della media borghesia industriale. Ebbe una buona istruzione, ma fin dall'adolescenza le si abbassò l'udito, cosa alla quale trovò consolazione nello studio e nell'impegno genetico, facendo in modo che la sua sordità non le impedisse una vita normale. Harriet aveva una tempra non comune, unita a doti intellettuali e morali notevoli. Verso i 20 anni cominciò a collaborare con un periodico che seguiva con attenzione le battaglie per le riforme politiche e ospitava idee riformiste sulla necessità di contenere l'aumento della popolazione e sulla cooperazione come leva per superare le ingiustizie sociali. Nei suoi scritti, Harriet affrontò tematiche di tipo economico e quando la Grande Depressione del 1829 portò al fallimento la fabbrica di tessuti della sua famiglia, il suo lavoro di giornalista si trasformò in una fonte di reddito. Ebbe l'intuizione di scrivere di economia sotto forma di racconti mensili, ponendo i temi dell'economia politica al centro della vita quotidiana, così che chi leggeva comprendeva facilmente e non aveva difficoltà a identificarsi. Nel 1832, a 30 anni, Harriet pubblicò tra gli altri le Illustrations of Political Economy e le Illustrations of Taxation. Questi racconti, che proseguirono per 2 anni al ritmo di uno al mese, le diedero fama tanto che i parlamentari si rivolgevano a lei perché inserisse nelle sue illustrations aspetti della legislazione in corso affinché il popolo potesse comprenderli. Tra il 1834 e il 1836 Harriet Martineau fece un viaggio in America. Scrisse il resoconto di ciò che vide, ponendo l'accento sull'esclusione femminile dalla cittadinanza. Poiché l'intenso lavoro le alterava da tempo la salute, le fu assegnata una pensione annua di 150 sterline, che lei rifiutò per non avvalersi di un sistema tributario che lei stessa aveva condannato. Una rara dimostrazione di coerenza e integrità che ce la avvicina, per carattere, all'amica Charlotte Bronte. Negli anni seguenti Harriet fu a lungo malata e visse per 5 anni in casa della sorella, il cui marito era medico. Infine, scoraggiata dagli insuccessi delle cure tradizionali, decise di tentare con il mesmerismo, una nuova cura molto discussa e osteggiata negli ambienti medici, consistente in una forma di ipnosi e movimentazione dell'energia sottile, una sorta di pranoterapia. Si ristabilì e credette di poterne attribuire il merito al mesmerismo, tanto che lo scrisse sulla rivista Ateneum, che Charlotte Bronte riceveva puntualmente dai suoi editori. Sul tema del mesmerismo scrisse Letters on the Laws of Man's Nature and Development, opera con la quale Harriet si allontanò dal cristianesimo. Nel 1844 acquistò un terreno vicino a Ambleside e vi costruì quella che divenne la sua residenza. Aveva 42 anni ed è lì che le scriveva e le faceva visita Charlotte Bronte. Insegnò ai bambini della scuola italiana di Mazzini, il quale di lei scrisse alla madre: «M'ha fatto piacere una lettera con a chiusa una banknote, una banconota di 5 lire sterline di una donna che stimo e amo molto, Miss Harriet Martineau. Vive in provincia, è scrittrice distinta, reputatissima qui e in America, radicale, ben inteso. Non ci siamo veduti mai, né ho mai avuto conoscenza con essa, Essa dunque mi scrive una lettera di simpatia dicendomi che essa sa che io sono spesso assalito da richieste dei miei compatrioti e che fo loro quando posso del bene, che essa desidera concorrere con me in questi atti di beneficenza e che mi prega d'accettare il piccolo dono da darsi al primo italiano povero che io creda meritare soccorso. Le ho risposto e spero che continuerò ad essere in corrispondenza con questa donna. Verso i 60 anni, Harriet cominciò a farsi portavoce della protesta di numerose intellettuali e associazioni femminili nei confronti di una legislazione discriminatoria, favorendo quindi la nascita di un vasto fronte suffragista. Nel 1867, a 63 anni, sottoscrisse la prima petizione per il voto delle donne presentata al Parlamento inglese. Tutta questa attività portò a due importanti conquiste: l'accesso delle donne ai consigli scolastici e il Married Woman Act, che consentiva alle donne maritate di tenersi i soldi guadagnati col proprio lavoro dopo il matrimonio senza doverli più consegnare al marito. Non si sposò mai, visse una vita libera, operosa e ricca di stimoli e infine, a 74 anni, lasciò il corpo nella sua casa di Ambleside. E ora riprendiamo la lettura degli ultimi capitoli di La vita di Charlotte Bronte di Elizabeth Gaskell.